Sezione 3 di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Sonia. Fantasia. Tu parli. E della voce alla molle aura, lenta cedendo, si abbandona l'anima del tuo parlar su l'onde carezzevoli e a strane plaghe naviga. Naviga in un tepor di sole occiduo, ridente alle cerulee solitudini. Tra cielo e mar, candidi augelli volano, isole verdi passano. E i templi sulle cime ardui lampeggiano di candor pario nell'ocaso roseo, e i cipressi della riva fremono e i mirti densi odorano. Era lunghi l'odor sulle salse auree e si mesce al cantar lento dei nauti, mentre una nave in vista al porto ammaina le rosse vele placida. Vego fanciulle scender dall'acropoli in ordin lungo, ed han bei pepli candidi, certi hanno al capo, in man rami di lauro, tendon le braccia e cantano. Piantata l'asta in sull'arena patria, a terra salta un uom, nell'armi splendido, e forse al ceo, dalle battaglie reduce, alle vergini lespie. Fine della sezione 3.